E allora, introdotti come di consueto dai Senza Sicura, dalla canzone La Memoria, quest'oggi con un po' di ritardo anche superiore al solito, visto che sono le 12:38, andiamo a cominciare questa puntata di Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Una puntata in qualche modo un po' light, quella di oggi, non proprio monografica, ma quasi, visto che parleremo principalmente di Francia, parleremo del Front National all'indomani della vittoria di Marine Le Pen alla presidenza del Front National. Marine Le Pen, la figlia dell'uomo che ha fondato e guidato il, appunto, l'FN per, penso, all'incirca 40 anni, e ne parleremo con il nostro redattore telefonico che già dovrebbe essere in collegamento adesso. Ci senti? Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, come dicevamo, un paio di giorni fa Marine Le Pen è stata incoronata alla presidenza del Front National, battendo quello che era il suo avversario di questi giorni, ovvero Bruno Gollnisch. Ora, io non so tu da dove partire, magari hai anche un filo già in mente e ti lascio assolutamente libero di seguirlo, se no, in caso contrario, una delle cose che poi, da cui forse partirei, è anche raccontare quali sono le due opzioni che si sono affrontate nel congresso di Tours di qualche giorno fa. Ma dunque, intanto, diciamo, partiamo da qualche elemento informativo molto generale. Il Front National è arrivato al suo 14° congresso, quello che si è svolto, come dicevi tu, a Tours nel scorso weekend. È un partito che è nato all'inizio degli anni 70 come coalizione, diciamo, federazione di tutta la destra radicale francese, sotto l'imprinting di quello che era il gruppo all'epoca più importante, cioè Ordre Nouveau, che fu sciolto peraltro per, diciamo, per istigazione, non tanto per istigazione all'odio razziale quanto per turbamento dell'ordine pubblico proprio in quella stagione. Riuniva all'epoca diciamo tutta l'estrema destra francese, a differenza di quello che era accaduto in Italia, che con l'MSI, diciamo, si era riunita all'indomani della seconda mondiale, cioè già nel 1946. C'erano voluti quasi 30 anni perché i fascisti francesi si rimettessero insieme, anche perché erano molto divisi dal punto di vista delle culture politiche, per cui fin dall'inizio il Front National mise insieme, che ne so, i monarchici realisti, appunto nostalgici addirittura della monarchia pre-rivoluzionaria, coloro che guardavano con simpatia al regime di Vichy, i nazisti veri e propri, i nazionalrivoluzionari che immaginavano di incarnare l'anima sociale, diciamo, del Terzo Reich, eccetera, eccetera. Quindi con una difficoltà di mettere insieme culture politiche che, se vogliamo, ha poi attraversato l'intera storia del Front National, sotto la guida di Jean-Marie Le Pen, che era stato un bretone paracadutista in Indocina, in Algeria, e giovanissimo deputato del movimento di Pierre Pujade, una sorta di uomo qualunque, quindi un movimento populista, diciamo, degli anni 50 francese. Le Pen era arrivato poco più che 25enne, insomma, in Parlamento sull'onda di questa primavera, diciamo, rivoluzione populista che aveva attraversato il panorama politico francese, e poi via via, diciamo, aveva costruito questa formazione, il Front National, che è arrivato a diventare importante sulla scena politica di Francia tra la fine degli anni 80 e il decennio successivo, soprattutto facendosi da apripista di quello che è poi diciamo un fenomeno che osserviamo ancora oggi, che è, diciamo, il definire la propria cultura politica da parte dell'estrema destra come rifiuto, come blocco alla immigrazione, in particolare la cosiddetta immigrazione extraeuropea, cioè quella che viene soprattutto in un paese coloniale come la Francia dagli ex territori colonizzati, quindi dall'Africa e dal Maghreb. Su questa posizione il Front National è diventato un partito importante, un partito che è diventato progressivamente il primo partito operaio di Francia in termini di voti, scalzando il PCF, cioè il Partito Comunista, da questo ruolo, che si è insediato negli ex bastioni industriali dei partiti del movimento operaio, quindi il Pas de Calais, la zona del nord al confine col Belgio, piuttosto che l'Alsazia e la Lorena, la zona della, diciamo, della Ruhr francese, e poi nel Midi, cioè nel Mezzogiorno di Francia, intorno alla Provenza e non solo, la zona che tradizionalmente metteva insieme diciamo un'opinione pubblica conservatrice, i rimpatriati dall'Algeria dopo l'indipendenza algerina del 1961, che conservavano un'opinione piuttosto conservatrice, e che quindi sono diventati un po' lo zoccolo duro del partito. In questa regione ci sono state anche alcune amministrazioni locali che hanno eletto dei sindaci del Front Nazionale. Percentuali di voto che andavano dal 12, 13, 15% a livello nazionale fino a punte del 25-30% in alcuni dei territori già ricordati. Exploit più alto, diciamo, della storia del Front Nazionale di Le Pen nel 2002, sconfiggere Jospin al primo turno delle elezioni presidenziali francesi e presentarsi al secondo turno direttamente contro Jacques Chirac, quello che ha prodotto in Francia una mobilitazione antifascista praticamente di proporzioni mai viste da dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cui tutti più o meno a malincuore hanno deciso di sostenere Chirac contro appunto Le Pen. Però questo per dire quale portata ha avuto la storia del Front National nella vicenda politica francese fino ad arrivare ad essere, diciamo, concorrente diretto, potremmo dire, per l'ascesa al potere. Su questa base si è arrivati a un congresso che in qualche modo, essendo Le Pen arrivato a 82 anni, doveva sancire anche il futuro del partito dopo che lui ne ha incarnato il passato. Si è aperta una contesa che vedeva da una parte, diciamo, il suo delfino naturale, cioè l'uomo che è sempre stato il numero due del partito in questi anni, Bruno Gollnisch, che è uno storico orientalista, insegnava lingua e letteratura giapponese all'Università di Lione, diciamo che ha il profilo classico del neofascismo francese, nel senso che Lione è stata la culla anche degli storici revisionisti, era passato da lì anche Faurisson, uno dei primi importanti negatori della Shoah, Gollnisch, diciamo, viene da quell'ambiente, ha sempre frequentato i negazionisti, i neofascisti più duri, e ha unito a questo il proprio rapporto con gli ultracattolici, con i movimenti lefebvriani e quant'altro, conservatori, quindi ha rappresentato un po', diciamo, il volto più tradizionale e brutale dell'estrema destra. Dall'altra parte, in questi anni si è costruita una figura pubblica, la figlia maggiore di Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, un avvocato parigino che per molti anni è sembrato stare lontana dalla politica, costruendosi appunto una sua vita personale, una famiglia, due figli, il lavoro al Tribunale di Parigi e quant'altro. Negli ultimi anni si è riavvicinata al partito e si è progressivamente messa in lizza per sostituire il padre. Si è candidata in particolare nella zona del Passo di Calais, in un comune, in una zona per le regionali del Passo di Calais, e ha costruito una campagna questo scorso anno, che noi definiremmo di porta in porta, volantinando i mercati, facendosi vedere e vendendo un'immagine completamente nuova del partito, almeno dal punto di vista esteriore, cioè quello di una donna che lavora, che ha due figli, che ha una famiglia, diciamo, con un messaggio che passava per gli elettori del tipo, come dire, sono come voi e che come voi mi confronto con i problemi concreti della Francia. Ovviamente su questi problemi, cioè sull'individuare le priorità, per così dire, della politica francese, in realtà tra Bruno Gollnisch e Marine Le Pen, ma lo stesso Jean-Marie Le Pen, cioè in realtà all'interno del Front National non ci sono davvero delle modifiche sostanziali o delle differenze sostanziali, tutto rimane legato ad alcuni temi. Quali sono questi temi? Prevalentemente il rifiuto dello stato di immigrazione, la questione della sicurezza con un accento particolare posto al controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine dei quartieri di Banlieue, dove si concentra anche, guarda caso, in proporzione il maggior numero, diciamo, di figli e nipoti degli immigrati, cioè i cosiddetti immigrati di seconda o terza generazione, come si dice brutalmente in Francia, e poi via via altri temi, a caratterizzare nell'ultimo anno, in particolare le prese di posizione di Marine Le Pen, è stata la denuncia della progressiva islamizzazione della Francia, seguendo in questo canale, diciamo, di espressione che sta trasformando in Europa i movimenti anti-immigrazione, questo è un po' l'eco lungo, diciamo, del post-11 settembre, in movimenti soprattutto anti-islamici che non denunciano più la presenza tout court degli immigrati, ma ne denunciano il carattere di trasformazione attraverso, diciamo, la vicenda islamica degli elementi culturali, quindi col paradosso che l'estrema destra finisce per dire non torneremo indietro sui diritti delle donne, non metterete il burqa alle nostre donne quando il modello sociale fin qui indicato, ipotizzato dall'estrema destra, era quello che più familista non si poteva. Sì, tra l'altro, no, soltanto per dire, rispetto anche a quello che, di cui parlavi adesso, che c'è un episodio che poi esemplifica anche un po' quello che stai raccontando, anche in questa evoluzione in Europa, e di cui poi in cui si trova anche il Front National, che è un discorso che ha tenuto Marine Le Pen qualche giorno fa proprio in quel di Lione, che è nella stessa città dove appunto invece Bruno Gollnisch aveva pronunciato delle parole anche piuttosto scioccanti per l'opinione pubblica, in qualche modo, visto che erano una cosa in cui in qualche modo si rimetteva in discussione l'esistenza delle camere a gas, e in un discorso appunto apertamente revisionista. Invece nella stessa città Marine Le Pen aveva in qualche modo risposto a quelle parole dicendo proprio testualmente che voleva ricordare a chi amava tanto parlare della seconda guerra mondiale che l'equivalente dell'occupazione tedesca oggi sono i musulmani che pregano per strada, che è una roba che in qualche modo illustra anche questa evoluzione appunto verso l'islamofobia rispetto a quello che era un certo tipo di nostalgismo, revisionismo e quant'altro, che ormai è, come dire, roba vecchia anche per appunto i populismi europei come li abbiamo visti sorgere in questi anni, no? Sì, e contemporaneamente questa dichiarazione di Marine Le Pen, che è arrivata alla vigilia del congresso, serviva anche però a dire: io sono sì, diciamo, nuova, ma continuo quella tradizione, diciamo, di giochi di parole o di rimessa in discussione della storia che ha caratterizzato mio padre, perché ovviamente paragonare l'occupazione nazista a la gente che prega per i tappeti, certo, nelle strade di Parigi o di Lione per terra rivolta alla Mecca, significa in qualche modo dire anche che l'occupazione altro non era che della gente che stava per strada, no? Allora, certo, ovviamente, insomma, di fronte alla Shoah e alla deportazione di massa non soltanto degli ebrei, insomma, e il tentativo di genocidio, chiaramente è una logica riduzionista, perlomeno, no? Che si può dire. Ma diciamo che la cosa veramente rilevante che sta producendo in Francia, e questo è già nei sondaggi d'opinione a cui arriveremo adesso, è un cambio, diciamo, di linguaggio, di modalità e di approccio. Cioè, qual è la vera differenza? Che al volto brutale in qualche modo degli uomini, tutti maschi del Front National, si è sostituito il volto di una donna, una giovane donna di 42 anni con un volto, diciamo, abbastanza triste, abbastanza segnato dalla vita, e assomiglia in modo drammatico a tanti piccoli bianchi a cui si rivolge il suo discorso, dice delle cose abbastanza brutali, ma le colora sempre meno di elementi ideologici, cioè di rimandi costanti al passato, e lo fa appunto con quello che si diceva prima, con questo atteggiamento del dire: io sono una persona come voi. Tra l'altro il Front National negli ultimi anni, e in particolare con la voce di Marine Le Pen, sta accettuando anche l'elemento, diciamo, da destra sociale, cioè di denuncia degli squilibri sociali, di denuncia dei tagli sociali, di denuncia dei tagli del welfare, no? Dice: io sono una donna sola con due figli, so benissimo che cosa, quanta fatica si fa a fare i conti per arrivare alla fine del mese. Ecco, questo mix di un nuovo volto, di un taglio sociale e di una chiusura un po' rispetto al continuo rimando al Novecento, ha fatto in questi ultimi due o tre anni la fortuna televisiva di Marine Le Pen, che si è già imposta come un personaggio pubblico, e quindi in realtà già alla vigilia del congresso di Tours, che cosa si era capito? Che Bruno Gollnisch, uomo dell'apparato, uomo delle tessere, poteva probabilmente contare su un ampio consenso di dirigenti locali, eccetera, ma Marine Le Pen era in qualche modo già la vincitrice morale, potremmo dire, del congresso, perché era pubblicamente già diventata il volto per tutti i francesi del Front National. E infatti il congresso ha segnato questo passaggio, due terzi dei voti sono andati a Marine Le Pen, adesso vedremo che cosa accadrà, ma non credo che ci si debba aspettare una scissione o quant'altro, tutti si rimetteranno più o meno a lavorare nella nuova condizione. C'è poi da aggiungere, dal punto di vista invece del profilo reale di Marine Le Pen, che in realtà i cosiddetti estremisti, visto che stiamo parlando di un partito che è tutto su posizioni radicali, erano ben schierati, nel senso che anche Marine Le Pen ha tra i propri collaboratori alcune figure talvolta più giovani come generazione, questa è la differenza che si potrebbe marcare con il suo rivale Gollnisch, che però vengono da esperienze assolutamente estremiste. C'è diciamo uno degli uomini, si chiama Bichet, che viene dall'ambiente diciamo della terza posizione francese. Ci sono dei cosiddetti nazionali rivoluzionari, cioè coloro che già da tempo puntavano su una ipotesi di maggior radicamento sociale del Front Nazionale. Ci sono degli ex fascisti, dei gruppi universitari fascisti di Parigi, della facoltà d'Assas soprattutto, che sono diciamo tra i collaboratori più stretti, quindi in realtà di Marine Le Pen. Quindi in realtà con lei si assiste, perché diciamo, dico questo perché la stampa francese ha detto la rivoluzione all'italiana di Marine Le Pen, facendo un paragone con Fini. In realtà bisogna ammetterlo, il paragone è solo superficiale, è solo formale, raccoglie solo questa modo diverso di porsi, ma dal punto di vista politico in realtà siamo ancora ancorati alla storia del Front Nazionale. Tra l'altro la stessa Marine Le Pen ci ha tenuto a prendere tutte le distanze da Fini, proprio quando qualche giornalista appunto l'ha associata a quel tipo di percorso, dicendo bene che lei in realtà non aveva tradito, tra virgolette. Comunque, mi senti? Sì, okay. Assolutamente. L'altra cosa c'era anche... continua, no? No, quello che è irrilevante purtroppo diciamo, è invece capire come l'operazione sia già stata bene nei media, cioè alla vigilia del congresso di Tours, che cosa si è registrato? Si è registrato che diciamo, tutti i sondaggi danno in crescita i consensi al partito, che passerebbe dal 14-15 al 18% dei voti in caso di elezioni presidenziali, ed è esattamente il caso con cui la Francia tra un paio d'anni dovrà fare i conti. Ma soprattutto diciamo, un sondaggio commissionato da Le Monde spiegava come ben un terzo, oltre il 32% diciamo degli elettori dell'UMP, cioè del partito di Sarkozy, vede di buon occhio le idee del Front Nazionale espresse da Marine Le Pen, e addirittura il 50% del totale degli elettori di destra, compresi quelli del Front Nazionale, ma che sono una minoranza, quindi la grande maggioranza sono elettori conservatori, indicano come possibile, se non auspicabile, un'alleanza tra Sarkozy e Marine Le Pen. Questa è diciamo la vera novità, cioè che in qualche modo Marine Le Pen, questo nuovo modo, questo nuovo profilo, il fatto che sia una donna, eccetera, eccetera, è riuscito nell'arco di pochissimo tempo, qualche anno, insomma, e poi con un'accelerazione negli ultimi mesi, a rendere più accettabile apparentemente il messaggio politico del Front National, fino a far dire che quel messaggio potrebbe far entrare diciamo in una coalizione che gestisca il potere a Parigi. E con questo diciamo questo elemento si lega ovviamente a quanto è accaduto negli ultimi due anni, negli ultimi due o tre anni, dall'elezione di, in realtà addirittura dal 2005 con l'elezione di Sarkozy, cioè che il presidente dell'UMP, che assomiglia molto più a Berlusconi che non a De Gaulle, che se ne dica in Italia, ha inseguito sul proprio terreno il Front National cercando di sottrargli i voti, ha imposto un dibattito sull'immigrazione e l'identità nazionale che aveva il sapore, il retrogusto del dire non tutti quelli che vivono qui sono i francesi veri e propri, e chiaramente insomma si parlava degli immigrati, ha imposto diciamo una stretta sulle banlieue che ha trasformato questioni sociali in questioni di ordine pubblico, e per ultimo si è messo in fila diciamo rispetto alle cose dette da Marine Le Pen sulla denuncia dell'islamizzazione, la legge sul tentativo di fare una legge sul burka, prima le questioni sul velo, poi la questione posta dallo stesso Sarkozy sulla minaccia rappresentata da coloro che pregano in strada. Cioè il problema è che nell'opinione pubblica su alcuni temi si potrebbe far fatica oggi, si potrebbe dire che si faccia fatica in Francia a scorgere delle differenze tra quello che dice Marine Le Pen e quello che dice Sarkozy, e questo è diciamo il vero problema. Sì, tra l'altro io rispetto anche appunto ai sondaggi che avevi citato e a quella cosa là, mi ricordo che nei giorni scorsi è stato tirato fuori anche uno studio da Libération, se non sbaglio, che raccontava come dagli anni 80 ad ora una porzione consistente dell'elettorato del Front National, che oscillava tra il 40 e il 60% dei suoi stessi elettori, in realtà non auspicava l'arrivo al governo di Jean-Marie Le Pen, nel senso che pur votandolo non considerava Le Pen come uno che avesse in qualche modo la stoffa o le qualità necessarie poi a sedere alla testa delle istituzioni. Quindi era un voto che in qualche modo dava più un'indicazione di pensiero, di linea o di protesta, eccetera, eccetera. Invece, appunto, come raccontavi, la figura di Marine Le Pen in qualche modo va a modificare anche magari questo tipo di percezione anche in seno agli elettori stessi del Front National. Infatti diciamo che la vera operazione che si conclude simbolicamente, che chiude insomma con il cerchio, con questa elezione, cioè con la presa del potere nel Front National di Marine Le Pen, condotta dall'estrema destra francese negli ultimi anni, è quella di uscire dalla denuncia e diciamo, dal rappresentare un voto o un'ipotesi di protesta, ma in questo sì, facendo un'operazione all'italiana, candidando quel tipo di analisi politica a governo del paese per il tramite, per l'apertura già fatta da Sarkozy. Diciamo che simbolicamente potremmo definire che da un lato Sarkozy ha posto al centro dell'agenda politica le idee fin qui marginali dell'estrema destra, dall'altra parte mandando in pensione Jean-Marie Le Pen, certo guascone, come dire, capace di trasformare un dibattito politico in uno show dell'estrema destra, ma in qualche modo proprio per questo più un simbolo di rottura che un'ipotesi, un ipotetico, diciamo, conducatore politico, il Front Nazionale esce dal suo elemento appunto protestatario e di rottura e si candida a essere una forza politica normale. A questo punto, come abbiamo visto in Italia, insomma, 15-20 anni fa, in qualche modo ci sono tutti gli elementi perché il gioco cambi, perché il problema non sia più come tenere a bada il Front National, ma come evitare un'alleanza terribile tra la destra conservatrice e il Front National, e come evitare che di fronte alla sfida, a un'ipotetica sfida di sinistra, i conservatori scelgano di abbracciare questa destra, come è fatto in altri paesi europei, il caso di Haider e dell'Austria con i popolari democristiani, anche questo di una quindicina di anni fa, sta lì a indicarlo, scelgano quella strada per mantenere ad ogni costo, anche sdoganando definitivamente questi che a tutti gli effetti restano ancora degli estremisti di destra, insomma. Senti, io avrei un'ultima domanda che in qualche modo poi per andare prima di chiudere a parlare anche di altro, che era la questione della laicità, nel senso che una delle differenze con quella che è l'islamofobia, immagino della Lega Nord nostrana, è che da noi per lo più la questione dell'Islam, alla questione dell'Islam viene contrapposta quella delle radici cristiane, il presepe nelle scuole, il crocifisso negli uffici e quant'altro, mentre invece mi sembra, io poi non sono stato neanche troppo attento in questi giorni, però mi sembra che i discorsi di Marine Le Pen invece sono stati improntati alla laicità, ovviamente chiaramente in salsa strumentale e intollerante, dipingendo appunto l'Islam minaccia per le donne, per la separazione tra Stato e Chiesa, gli omosessuali e quant'altro. A questo punto qua, secondo te in quale famiglia europea si va a collocare questo Front National voluto da Marine Le Pen? Cioè, con chi va a parlare in Europa questo partito? Diciamo che questo passaggio segnala in qualche modo un'accelerazione del cambiamento. Gollnisch guardava addirittura non al cattolicesimo tradizionalista di Pio XVI, ma addirittura ai lefebvriani, che certo sono ritornati nella Chiesa romana, ma insomma rappresentano una specie di ultrapolitici del cattolicesimo. Marine Le Pen si sta indirizzando il Front Nazionale in quel filone ampio in cui in Italia si è già posizionata da tempo, ad esempio, la Lega, ma non soltanto la Lega, che è quella appunto di una difesa paradossale della laicità dello Stato nei confronti della minaccia dell'Islam, che altro non è che un riproporre la logica da 11 settembre del o noi o loro, in qualche modo di una guerra di civiltà riportata nella politica nazionale. Questo è un filone molto ampio, perché in realtà in questo filone in Europa ci sono già, che ne so, i partiti dell'estrema destra populista scandinava, c'è sicuramente il Vlaams Belang, il partito che ha preso il posto del Vlaams Blok nelle Fiandre, ci sono altre formazioni, diciamo, di questo tipo piccoline in giro per l'Europa, ma poi sempre di più questo elemento pesa anche sul Partito Popolare Europeo, diciamo, sulla posizione complessiva dei conservatori. Che ne so, in Catalogna, dove recentemente ci sono state le elezioni, il Partito Popolare insieme a delle liste locali di estrema destra ha condotto una campagna sul velo che ha accompagnato le elezioni politiche catalane. E in Italia sappiamo bene come la questione, diciamo, della denuncia del rischio islamico non appartenga solo alla Lega, che ne è l'alfiere, ma poi il Popolo della Libertà sia assolutamente lì, diciamo, a dire più o meno le stesse cose. Quindi è chiaro che è un posizionamento che da un lato smarca da questo elemento minoritario di essere la voce dei lefebvriani, quelli che facevano 42 figli, che volevano ancora la messa in latino, che immaginavano un mondo quasi medievale, no? E che rappresentano una porzione significativa dell'estrema destra francese, ma ovviamente marginale dal punto di vista elettorale. E dall'altro, posiziona questo partito in una sorta di mainstream politico che non ha dei contorni così netti, sicuramente fuori da un'appartenenza stretta alla cultura dell'estrema destra. Pensiamo, non so, al referendum contro i minareti fatto dall'UDC in Svizzera, che è un partito, si chiama Unione di Centro, che a tutti gli effetti potrebbe assomigliare a un partito popolare, a una vecchia Democrazia Cristiana, ma con posizioni assolutamente islamofobiche. Questo è un altro passaggio determinante che è avvenuto. E allora io su questo penso che anche prima di andare a chiudere, visto che abbiamo anche sforato, se non so se abbiamo il tempo, giudicalo anche te, siccome stiamo parlando di Europa e di destre radicali e di partiti islamofobi che sorgono, c'è anche un aggiornamento da dare, se non sbaglio, per quanto avviene in Germania, no? Sì, perché c'era un altro congresso molto meno importante, diciamo, molto meno rilevante in questo weekend che si è svolto a Lichtenberg, un quartiere dell'est di Berlino, dove l'NPD, i nazionaldemocratici e il GVU, il partito un tempo dell'editore bavarese Frei, due partiti di estrema destra, si sono fusi e si preparano ad affrontare sotto gli emblemi dell'NPD, che è la formazione più antica, diciamo, del neonazismo tedesco, le prossime elezioni. Scusa, ma l'altra formazione quanto raccoglieva in termini anche elettorali? Ma diciamo con dei punti molto. L'NPD è ormai stabilmente sopra l'1%, la DVU ha avuto alcuni exploit, ricordo a Brema una decina di anni fa e altre cose in Baviera, in cui aveva raccolto il 2-3%, però sono partiti sotto l'1% di media, mettendosi insieme possono sperare di arrivare appunto tra l'1,5% e il 2% a livello nazionale. Le cose cambiano nei Länder orientali, dove invece la sottocultura giovanile, Bonez, e anche, diciamo, la povertà, la disperazione lasciate, diciamo, dalle macerie della Repubblica Democratica Tedesca nella popolazione conducono spesso quelli che stanno peggio verso l'estrema destra. La loro unione sicuramente chiarisce le cose, nel senso che campo della destra radicale a questo punto è in larga misura unito dalle proprie forze. A questo elemento si può poi aggiungere il fatto che nei prossimi mesi si voterà in due regioni dell'est e soprattutto si voterà a Berlino, dove nei quartieri orientali, quelli che un tempo erano al di là del muro, diciamo, la destra radicale ha da sempre delle proprie roccaforti, quindi con un'unione più forte in termini politici e organizzativi questi gruppi si possono creare a ottenere qualcosa di più, anche a superare lo sbarramento del 5% e quindi portare degli eletti o nei Länder regionali o nei Länder della città, nel parlamentino della città di Berlino. A questo elemento si deve poi aggiungere il fatto che già da alcuni mesi alcuni esponenti del partito democristiano di Angela Merkel si preparano a lanciare un cartello anti-islamico, sfruttando quindi il momento che ricordavamo prima, per sfidare da destra la Merkel. La Merkel è corsa ai ripari, diciamo, accrescendo in queste ultime settimane i propri riferimenti alla presenza musulmana, ai turchi, diciamo, problematizzando quello che non era mai stato apparentemente un problema dei democristiani tedeschi. Certo è che, diciamo, questi due elementi, la riunione dell'estrema destra in un unico cartello e la possibile minaccia di un partito conservatore estremista, non viene come altro finirlo al momento, possono rappresentare una buona ipoteca per le prossime elezioni, a Berlino e non soltanto lì, insomma. Va bene, noi allora probabilmente ne ritorneremo a parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere, oppure ci avviamo alla conclusione, ci possiamo No, un anche salutare. appuntamento alla prossima settimana. Va bene, ti ringraziamo. Grazie Grazie, a te. ciao. Ciao. No. nonostante proprio alla fine del collegamento avete sentito il jingle di Take It Easy, questa invece era Maldestra. Maldestra che alle 13.07 di questo martedì 18 gennaio 2011 va a chiudere le note di Kenny Arcana, Jean Bach, così rimaniamo geograficamente legati.